50 domande su Gesù. Chi furono i 12 apostoli? Uno dei fatti più conosciuti nella vita di Gesù è che costituì un gruppo di 12 discepoli che chiamò i 12 apostoli. Questo gruppo era formato da uomini che Gesù aveva scelto personalmente, che lo accompagnavano nella sua missione di instaurare il regno di Dio e che furono testimoni delle sue parole, delle sue opere e della sua resurrezione. Il gruppo dei 12, dagli scritti del Nuovo Testamento, appare come un gruppo stabile e ben delineato. I loro nomi sono Simone, a cui dette il nome di Pietro, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, il fratello di Giacomo, ai quali dette il nome di Boanerges, cioè a dire figli del tuono, Andrea e Filippo, e Bartolomeo, e Matteo, e Tommaso, e Giacomo di Alfeo, e Taddeo, e Simone Cananeo, e Giuda Iscariota, quello che lo tradì. Così il Vangelo di Marco. Nelle liste che appaiono negli altri Vangeli e negli Atti degli Apostoli ci sono leggere variazioni. Taddeo in Luca viene chiamato Giuda, ma il cambio non è significativo, perché, come si vede nell'elenco di Marco sopracitato, ci sono persone che hanno lo stesso nome, Simone, Giacomo, e che si distinguono per il cognome o per un secondo nome. Si tratta dunque di Giuda Taddeo. Un dato significativo è che il libro degli Atti di San Luca non dice nulla del lavoro di evangelizzazione di molti di loro, prova del fatto che si dispersero molto presto e che ciò nonostante la tradizione dei nomi degli apostoli era fortemente radicata. San Marco scrive che Gesù salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. È così sottolineata l'iniziativa di Gesù e quale doveva essere la funzione del gruppo dei 12, stare con lui ed essere inviati a predicare con la stessa potestà di Gesù. San Matteo e San Luca si esprimono con toni simili. Nei racconti degli evangelisti si vede come accompagnano Gesù, partecipano della sua missione e ricevono un insegnamento particolare. Non si nasconde il fatto che molte volte non capiscono le parole del Signore e che lo abbandonano al momento della prova, ma sottolineano anche come Gesù rinnova loro la propria fiducia. È di grande importanza che il numero degli eletti sia 12. Questo numero rinvia alle 12 tribù di Israele e non ad altri numeri comuni in quel tempo. I membri del Sinedrio erano 71, i membri del Consiglio di Qumran 15 o 16 e i membri adulti necessari per il culto nella sinagoga 10. Con ciò appare chiaro che Gesù non vuole restaurare il regno di Israele sulla base della terra, del culto e del popolo, ma instaurare il regno di Dio sulla terra. A conferma di ciò c'è anche il fatto che al momento della venuta dello Spirito Santo a Pentecoste, Mattia occupi già il posto di Giuda Iscariota e completi il numero dei 12.